Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Alla Juventus sono costati 5.000 euro di ammenda agli insulti dei suoi piccoli tifosi all'indirizzo del portiere dell'Udinese. Domenica scorsa la Juve aveva avuto il permesso dalla Lega di riempire le curve squalificate per i cori di discriminazione territoriale degli ultra bianconeri con 12.000 giovanissimi sostenitori. Alcuni di loro però hanno voluto evidentemente emulare i tifosi adulti nei loro comportamenti più deteriori. La Juve con un comunicato ha espresso sconcerto per la decisione del giudice sportivo. 5.000 euro di multa a una squadra come la Juventus. Io sono profano, ma che è la mancia che dà un calciatore quando va con quelle 5-6 ragazzette al privé della discoteca la sera, figuriamoci, 5.000 euro. Però il fatto è interessante, a me mi ha molto incuriosito, che mi piace avventurarmi in territori per me sconosciuti. Vedo oggi in prima pagina sul Corriere della Sera, anzi me lo segnala Fabrizio Intonti, a cui devo tutto, un pezzo di Roberto Perrone sui tifosi bambini. Riassumo come l'ho vista io, poi voi che di questo sicuramente ne sapete molto più di me, aiutatemi a ricomporre nella mia testa questo quadro. C'era questa partita Juventus-Udinese, la Juventus in una partita precedente, cioè la curva dei tifosi cattivissimi aveva lanciato insulti discriminatori, territoriali, l'insulto territoriale, dire voi schifosi terroni, robe del genere, capito? E quindi l'avevano segati via, non potevano più andare i tifosi in curva. Per fare una cosa carina, carezzevole, e tu facciamo una bella idea, mettiamo i bambini nella curva, e hanno messo la curva piena di bambini carini, vedo la foto sul Corriere della Sera, tifa con me, scritto come l'avessero scritto con i pastelli a scuola e con le manine colorate dei bambini, la mano della pace, tutti i bambini avevano la bandierina con scritto tifa con me. Comincia la partita, a un certo punto, secondo le liturgie delle partite di calcio che apprendo questa mattina, quando il portiere dell'Udinese, che si chiama Zeko Bric, rinvia la palla, i bambini fanno quello che gli hanno insegnato a fare i loro genitori, fanno oh merda, e gli dicono no, è brutto, ma fanno così, pare che ci sia questo uso per confondere il portiere, quando rimette la palla e si dice questa roba qua. E allora si sono arrabbiati, il giudice sportivo, diamo 5.000 euro di multa, non vuol dire niente, è una ridicolata, 5.000 euro di multa come a me chiedermi un centesimo, ma forse nemmeno vale il rapporto, capito? Però questo fa molto discutere, perché fa ridere pensare che i bambini dovrebbe essere l'aspetto catartico, mettere i bambini avanti è molto commovente, in Italia ci mettiamo sempre i bambini di mezzo, da quando si va lungo le metropolitane con l'organetto a suonare e si gira col bicchierino fino ai grandi eventi del paese c'è sempre un bambino di mezzo, diciamo ultimamente l'hanno un po' sostituiti con i cagnolini, perché evidentemente scarseggiano i bambini e abbondano i cagnolini, però ancora al suo potere emotivo. Ecco la domanda che vi faccio, ma fatemi un po' capire, ma questi bambini che vengono portati con una transumanza penso coatta a riempire la curva per far vedere che in fondo il calcio è pulito, che le famiglie hanno a che fare con una visione diversa del calcio, in realtà se quando hanno 6-7 anni, sono in età scolare, dicono merda al portiere, quando hanno 15 anni andranno anche loro con la mazza ferrata come fanno gli stessi ultra che voi cacciate dalle curve? Beh, questo ve lo domando. 800 24 00 24, sentiamo però, perché non voglio dare voce anche a persone qualificate, cosa dice a proposito il portiere della Juventus Gigi Buffon. Sicuramente una scelta almeno singolare, chiamiamola così, nel senso che a livello di forma, a livello educativo non è stato un segnale eccezionale, però credo anche che la parola pronunciata non sia una parola così offensiva che meriti questo tipo di multa, al di là del fattore economico, ecco, però proprio il fatto di balzare alle cronache per un qualcosa di così disgustoso, ecco, mi sembra anche un po' eccessivo. Buffon dice, in fondo questa è una parola ormai entrata nell'uso comune, diciamo che anche i grandi attori di teatro, anche le leggiadre attrici, anche le scartine che hanno velleità di tipo artistoide nei camerini dei reality show della Rai o di Mediaset o di chiunque, si dicono questa parola perché pare che sia scaramantica, dicono bisogna dirlo. A me è una parola che dà un po' fastidio pronunciare, a me piace, le parolacce sono un colorito condimento del parlare comune, questo non è delle parole che mi entusiasmano. entusiasmi di più. Ma non è il fatto che i bambini abbiano detto la parola, il fatto è che proprio esattamente sono incamminati nel seguire lo stesso iter liturgico dei loro genitori, degli adulti, di coloro di cui dovrebbero prendere il posto. Quindi il calcio comunque ha una sua caratteristica, che bisogna avere questo tipo di comportamento. E quindi logicamente è inutile metterci bambini, metteteci vecchietti piuttosto, andateli a prendere negli ospizi, quindi non avranno nemmeno il fiato probabilmente di replicare. Giancarlo. Buongiorno. Mi aiuti e mi soccorra. Spero. Allora, guardi, il problema è complesso e semplice allo stesso tempo, come tutte le cose della vita. È complesso perché il calcio è chiaramente uno dei sfoghi e uno dei modi in cui la società riesce a veicolare, a canalizzare le tensioni sociali. Ma allora è inutile trasformarlo in una riunione di Boy Scout. E allora, volevo arrivare a questo brevemente, così lascio tempo per altri ascoltatori. La responsabilità delle azioni a volte è abbastanza chiara, cioè magari è più difficile capire chi ha fatto un attentato, però chi ha in questi ultimi almeno 30-35 anni rovinato uno sport e quindi lo ha drogato di ambizione, di soldi, di aspettative, sono semplicemente, prima di tutto, la Federazione Italiana Gioco Calcio e le società messe in mano comunque sia a presidenti che tutto hanno fatto fuorché educare, perché quando scusi tanto, perché dopo andiamo troppo, ci allarghiamo troppo. Perché dovrebbero educare persone che in realtà praticano questa attività perché ne ottengono un sacrosanto lucro? Perché allora pretendere che i bambini facciano i buonini, diventano i carini, fare lo zecchino d'oro della curva mi sembra una cosa abbastanza assurda. Vorrei però, mentre lei ci ascolta, dare la voce a Gianni Ippoliti, che è un amico, un personaggio di spettacolo, però lui ha una forte passione sincera per il calcio, è anche arbitro di calcio e tiene molto a dirlo. Larga sentenza del giudice Tosel che finalmente ha sanzionato l'insulto che viene rivolto da alcune tifoserie quando il portiere effettua il rinvio. È un insulto, non è di discriminazione territoriale, è di discriminazione demenziale, perché non c'è nessun motivo di etica sportiva, di buonsenso, di omaggiare con il coro merda un portiere che stia rinviando. Ora, siccome sono anni che questa cosa andava avanti, c'è stata l'occasione dei bambini che a Torino, in occasione della festa per il riempimento delle curve squalificate, hanno continuato a gridare merda anche loro al posto dei grandi. Qual è la cosa grave e demenziale? Quando è partito, dopo 2 minuti e 36 secondi, il primo coro merda verso il portiere dell'Udinese, nessuno si è peritato di scrivere sul tabellone smettetela. Nessuno speaker ha fatto quello che si fa quando partono dei cori razziali o di discriminazione territoriale. Si invita il pubblico a smettere di fare questi cori per evitare multe e squalifiche. Quindi il tabellone, che era tutto quanto volto all'organizzazione, alla cura di questi bambini, non ha scritto nulla. Lo speaker non ha detto nulla. In più l'aggravante è che gli accompagnatori dei bambini in curva, anche loro ridendo, gridavano merda. Quindi questa prima multa, che è nata proprio dal fatto che c'è l'aggravante dei minori, è una sentenza storica. Gianni Ippoliti, tra l'altro, ha anche stato promotore di un'iniziativa, fra le tante liturgie, secondo me, ridicole, buoniste, rozzamente seminariste, cioè quella di far entrare i giocatori in campo all'inizio della partita con in mano un bambino con la maglietta alla squadra avversaria. Ora, sono pronti a spaccargli gli stinchi e a sfrantumargli i testicoli, però portano il bambino con la maglietta vicino a vedere che sono buoni. Lui dice, mandate anche un arbitro con il bambino arbitrino, non lo so, servirà qualcosa. Sadicamente lo scelgono sempre molto poco somigliante all'arbitro, perché così dovrebbero confermare il fatto che, essendo arbitro naturalmente, non può avere garanzia della sua progenie diretta. C'è stato un bambino che ha dichiarato, io faccio quello che ho visto fare a mio padre, e quindi se i grandi allo stadio gridano merda, io 3 anni fa dissi, ma nel momento in cui si chiede di far ritornare i bambini e le famiglie allo stadio, cosa dice un genitore a un eventuale bambino che dica papà, perché dicono merda contro uno che ha rinviato solo la palla? Il genitore che cosa gli risponde? È una cosa così, è un gioco. Allora il bambino, pensando che sia un gioco, dice merda. Quando poi sento dire, e chiudo, lo sconcerto dei dirigenti per questa sentenza, allora so paura, perché sì, fino a quando un ragionamento del genere viene da una mente ottusa che grida merda, da gente che butta fumogeni, va bene, ma se poi un alto dirigente dice che è sconcertato per la sentenza che fa il punto su come abbiamo educato i bambini a comportarsi allo stadio, non bisogna chiudere le curve, bisogna chiudere le sedi e le dirigenze delle società. Ecco, ha detto le cose più lucide e più sensate che si potranno dire Gianni Poggi, l'abbiamo sentito questa mattina, poi devo andare in aereo, se no l'avrei sentito in diretta. Dice, non ci prendiamo in giro, i bambini hanno detto merda, ma erano insieme ai loro maestri, ai loro insegnanti, alle loro educatrici, alle mamme, alle zie, alle nonne, erano tutte entusiaste, tutti ridevano, tutti erano contenti, come quando ci sono quei pranzi di matrimonio un po' coatti, che alla fine quando non si sa proprio più che fare, dopo che hanno portato, hanno mangiato, bevuto, fatto gli auguri, tirato i confetti, portato il piatto con la pannocchia alla sposa, i bambini si mettono al centro della tavolata e fanno le sconcezze, ridono, si medano e tutti tornano a guardare. Ecco, è la stessa cosa, una sorta di antico campagnolo, rozzo, tribale rito il calcio. E noi te vogliamo pulirlo, noi te mettiamo i cartellini policromi, tifa con me, scriveteli di marrone, perché questo logicamente è il colore che ispirerà i bambini nelle loro esternazioni pubbliche. Ci fermiamo un attimo, mandiamo il traffico. Allora Luigi, sullo zecchino d'oro degli stadi italiani, come la pensa? Allora, buongiorno signor Nicolai, innanzitutto. Allora, io volevo dire che questa sentenza è il frutto di un accanimento nei confronti di una società. Vabbè, 5.000 euro è una buffonata, non è una multa. Ma non è la cifra. Come se lei gli chiedesse, mi dà un centesimo per favore Luigi, la stessa cosa, lei me lo tira in faccia, dice tienta. Su questo dal punto di vista economico sono d'accordo, ma il vero problema non sono i 5.000 euro, non è la quantità di denaro, è il frutto di un accanimento, perché vorrei sapere perché per cori contro i morti della Isel non vengono presi provvedimenti, cori contro Superga non vengono presi provvedimenti, cori di altre tifoserie come per esempio tra Lazio e Napoli. Vabbè, lei entra nello specifico, ne fa una questione, io il tema lo vedo più largo, a me non interessa nulla, non mi intendo di calcio, se c'è poi una discriminazione ce l'hanno con la Juventus, il fatto è divertente, mandano via i cattivi, mettono i bambini buoni con i fiorellini, con le maestre, con i puffi e via dicendo, e questi si comportano come i padri. Gianluca. Sì, buongiorno, io volevo dare la mia testimonianza, sono andato allo stadio a vedere la partita. Io volevo solo specificare che il discorso dei bambini che hanno fatto i cori, le due curve erano divise, da una parte c'erano i bambini delle scuole medie, elementari, e dall'altra quelli delle scuole calcio, sono stati quelli. Io non so se lei è mai andato a vedere una partita. No, mai in vita mia. Ecco, guarda. Cioè, mi hanno costretto i salesiani a guardare, che ne so, Don Bosco Nord contro Don Bosco Sud, ma ero piccolo. Poi una noia, i preti giocavano con la tonaca, pensi che partita. Difatti, anch'io sono andato ai salesiani. Sì, cioè, ma erano anni duri, capito? Uno deve stare con le spalle al muro, quindi non stavo molto attento alla partita. Prego. No, io volevo solo dire quello, che i cori sono arrivati dalle scuole calcio. Come le dicevo, i ragazzini a quell'età lì già sono molto... quindi colpevoli sono i bambini che fanno... Noi bambini, poverini, innocenti, che vanno lì col fiorellino in mano. Gli altri delle scuole calcio? Sì, sono stati i cori, arrivavano da quella parte. Lei era testimone, quindi, era testimone. Sì. Quindi diciamo c'era come la lavagna divisa a metà, buoni e cattivi, i cattivi erano quelli già scafati. Diciamo, da una parte medi elementari e dall'altra le scuole calcio. Le scuole calcio, appunto, io ogni tanto vado a vedere le partite dei ragazzini, vedo delle cose assurde. Beh, chiaro. Che dicono ai bambini, picchia, mena, spacca, lo rompe. Quindi io posso immaginare che a quell'età lì... Quindi è stato anche diseducativo, perché poi i bambini innocenti torneranno traumatizzati. No, io questo non lo so, penso che in giro ne vedono di peggio, non penso che un bambino a 12 anni sia così ingenuo, insomma i bambini... Vabbè, è interessante, la testimonianza comunque ci chiarisce molto. Lorenzo. Buongiorno, fantastico, ci voleva una partita di Serie A per capire che i bambini italiani dicono merda. Io trovo tutta questa discussione assolutamente grottesca. Pensando che ci sia un pupù, capito? Dovevano dire pupù, pupù. È davvero allucinante, cioè io la cosa che mi fa più paura è proprio questa distanza oramai che intercorre tra diciamo genitori o diciamo società ben pensante e bambini innocenti innocui che dovrebbero essere... È che c'è un'ipocrisia seminarista nel nostro paese che gira dappertutto, capito? Tutti vogliono essere buoni. Manca che Papa Francesco dica la sua su questo, dica bambini, non potete ma dire. No, siamo a livelli allucinanti, poi peraltro va da sé, se in un ambiente certe cose si fanno da che mondo è mondo, se le faccio un esempio, adesso esagero ovviamente, ma se in un'antica Roma si sapeva che nel Colosseo si facevano determinate cose, è inevitabile pensare che allo stadio si faccia altrettanto, ed è già tanto che si siano limitate a, allora, ecco, a non tirarla, ecco, a portarla nei secchielli e tirarla, che potrebbe essere un'attività più interattiva. Eh no, già che uno c'è, io quello... lei ha perfettamente ragione. Se volesse andare oltre, guardi, se volesse andare oltre, non ci vado perché non mi piace il contatto con tanta gente assieme. Cioè, io la tirerei se volessi fare un atto veramente cattivo, se no a dirlo fa ridere, cioè, e lo dico quando la pesto per strada di un cane. Comunque, grazie, Mattia. Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Guardi, io il mio pensiero è stato egregiamente espresso da Gianni Impoliti, non ho nulla di più da aggiungere. Secondo me la maleducazione è ormai dilagante e quello che è sconcertante è che una società come la Juventus possa dirsi a sua volta sconcertata da un provvedimento di un giudice sportivo che non fa altro che attestare che la maleducazione ormai è... Ecco, ma quale sarebbe stato un comportamento sincero, corretto? I nostri bambini dicono merda perché vanno a vedere una partita, è logico che lo dicono. Fa parte delle ritualità necessarie, come si fa a non dirle? Come, non lo so, che a carnevale si può fare e dire qualunque cosa, si può sovvertire anche le regole. Ci sarà ben qualcuno che può anche dire guarda che merda non si dice. Io credo che qualcuno, che sia il genitore o l'accompagnatore, forse deve intervenire. Ma per lei, mi scusi, faccia capire, è più grave la parola in sé o è grave che sia un atto, diciamo, mirato nei confronti di un giocatore per infastidirlo, per insultarlo? No, guarda, se avessero detto cacchina, sarebbe stata la stessa cosa? No. Sì, secondo me sì, sarebbe stata anche la stessa cosa. Anche Popò, la stessa cosa? Stessa cosa, perché è proprio il segno che non c'è un limite e che l'educazione... non ha dei paletti entro i quali bisogna tenere un comportamento. Ci vorrebbero dei paletti per Stefano Fortunato. Eccomi. Allora io volevo dire questo, siccome ho sentito la parola salesiani, io sono giocato nei salesiani perché frequentavo un istituto a Roma e dove adesso io mi piace scherzare su queste cose, ma erano i più forti nel formare ragazzi che non avevano nessuna chance, non avrebbero avuto nessuna chance di fare sport, ragazzi di famiglie molto modeste, di famiglie che venivano dalle campagne. Io parlo degli anni 60-70. Se non ci fossero i salesiani non ci sarebbe stata basket, ma non sarebbe stato calcio. Ben contento di essere stato dai salesiani, glielo dico con tutta sincerità. Se lo ricorda l'inno di Don Bosco? Come no? Lo dica. Io mi ricordo. Com'era? Com'era? Non lo dica. Se no me lo fa dimenticare. Don Bosco ritorna? Io ho studiato al più undicesimo a Roma. Maria sta bleffando. Mi dispiace. No, non sto bleffando. E allora dica Don Bosco ritorna? Il nome, anche il nome del direttore. Dica Don Bosco ritorna. Io facevo parte. No, niente. Lei è un finto salesiano. Lei è un finto ex allievo. No. E allora dica l'inno di Don Bosco. Documentazione. Ora. Almeno come una cervanella, manco questo. Non me lo ricordo bene, però le dico questo. Guardi, Don Bosco ritorna, tre giorni di ancorti, aspettano frementi di gioia e d'amore, questo è. Esatto, va bene, sì, esatto, noi andiamo a fare una partita a Frascati, va bene, contro un altro collegio salesiano. Il preside, io facevo parte della famosa nazionale dei Gerini, siamo andati a Torino, vabbè, lasciamo stare. Il preside ci disse: guardate, non tornate che avete perso. Io sono di Roma, vivo a Firenze. Non tornate che avete perso perché che vi faccio? compito in classe per tre giorni di fila. E occhio, perché tornammo, meno male che avevamo vinto. Certo, i salesiani mica dormivano. Stefano. Pronto? Stefano, sì. Sì, no, io volevo dire una cosa a proposito di bambini e squadre di calcio. Nel senso che ho portato mio figlio a vedere una partita e dopo questa partita c'era un'iniziativa per cui facevano conoscere ai bambini i giocatori, li portavano a vedere i giocatori, no? Praticamente i bambini ci sono stati sequestrati per un'ora senza nessun tipo di codice, di documento, preso ai genitori per identificarli, per accoppiarli ai bambini. L'hanno accoppiato con i giocatori? E che è successo? Praticamente, cioè, ci sono state misure di sicurezza inferiori a quelle che ci sono in un grande magazzino. Vabbè, svedese. Mica i giocatori se li mangiano, i bambini avranno firmato la maglietta. Ma sono stati in un'area di uno stadio dove passavano fotografi, gente, persone che smontavano le cose. Ma lei gliel'ha lasciato, lei poteva tenersi il figlio, io non ve lo do mio figlio se non vengo io. Questo anche lei doveva avere un minimo di accuratezza. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, grazie a chi mi ha dato illuminanti motivazioni a guardare finalmente una partita di calcio.